Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Con Casa Italia, eredità che ci lascia il governo dimissionario, a partire dal 2017 per i successivi 5 anni, i condomini italiani avranno a disposizione un regime di incentivi, direi abbastanza generoso, insomma, destinato alla loro riqualificazione energetica e sismica. Parliamo di detrazioni fiscali che per la parte energetica, e a patto che il condominio non si limiti, diciamo, a un restyling, ma proceda a una ristrutturazione profonda, raggiungeranno il 75% del costo di intervento, che saranno anche cedibili a un soggetto terzo, per esempio chi realizza l'intervento o è da vedere anche chi lo finanzia. L'obiettivo più importante che si prefigge questa operazione, oltre a tentare di rilanciare il settore dell'edilizia che soffre ormai da anni, è quello di ridurre il fabbisogno di energia degli edifici italiani. E tutti gli esperti, insomma, sono d'accordo nell'affermare che se questo è l'obiettivo, il modo più corretto di procedere consiste come prima cosa nel migliorare l'involucro. Stasera allora vogliamo fare il punto su costi e benefici del cosiddetto cappotto termico, con l'aiuto di Luciano Terrinoni, che è responsabile ufficio riqualificazione degli edifici nell'ambito dell'unità di efficienza energetica dell'Enea. Buonasera Terrinoni. Buonasera dottor Melis. Senta, allora vi abbiamo chiesto di aiutarci un po' a capire quali sono i benefici economici del cappotto, cercando di individuare alcuni esempi tipo, quindi insomma quali sono? Diciamo che bisogna fare una prima grossa distinzione fra la zona climatica di appartenenza e dove insiste l'edificio. Come sappiamo il clima italiano è estremamente variabile, dal nord a sud sono state individuate ben 7 zone climatiche, dalla A alla F, e la F è quella più severa, dal più fredda climatico invernale. La maggior parte degli edifici, in particolare i condomini, sono situate nelle zone climatiche intermedie, che sono la D e la E. Okay. Per esempio Milano e Roma. Milano per la E e Roma per la D. Da questo punto di vista l'intervento del cappotto che cosa consente? Prima di tutto che cos'è? Si tratta di coibentare l'esterno dell'edificio con uno strato di isolante più o meno importante a seconda della severità. Più o meno spesso. A proposito, da questo punto di vista ci sono dei vincoli per poter accedere agli incentivi? Cioè bisogna raggiungere dei risultati minimi quando si fa un intervento di cappotto? Direi di no. Okay. Però l'intervento va calibrato sulla zona climatica. Certo, questo per ottenere dei risultati sensati, possiamo, non c'è andare, dubbio. Diciamo dai 4 centimetri minimo per le zone climatiche meno severe, A e B, sto parlando del sud Italia, Catania per esempio, a 8-10 centimetri per la zona climatica F, Cuneo, okay, Belluno e così via. Il risparmio in energia primaria che è possibile ottenere è stimabile a grossi numeri fra il 20 e il 25%. Quindi immaginiamo di intervenire nella zona climatica E, nella zona climatica D, con un cappotto opportuno che ci faccia risparmiare questa percentuale di energia. I conti dal punto di vista economico come sono a questo punto? Mettiamo l'attenzione su un parametro molto semplice, che è il tempo di ritorno dell'investimento. Perfetto. Uno investe 100, ogni anno risparmia in combustibile 10, 100 diviso 10 fra 10 anni, cioè l'investimento. Perfetto. Ritorna in 10 anni. Da questo punto di vista possiamo stimare, con gli spessori di coibentazione che abbiamo detto precedentemente, sì, per la zona climatica D diciamo circa 12 anni, per la zona climatica E, quella più severa rispetto, sì, alla D, è un pochino meno, diciamo 10 anni. È ovvio che se si va invece nella zona climatica meno severa, Catania per esempio, questi numeri aumentano, andiamo verso anche i 15-20 anni. Il che probabilmente ci dice che ci sono altri interventi preferibili, esatto, ecco, no? Ma esatto, che magari non sono più sull'involucro, su altre cose. Mi dica una cosa, questi numeri tengono conto delle detrazioni fiscali? Questi numeri no, sono a, okay, prescindere dalle detrazioni fiscali e da eventuali incentivi. Diciamo è il costo che il condominio dovrà sostenere senza gli incentivi. Ecco, quindi considerando gli incentivi questi tempi però si riducono notevolmente. ma diciamo in proporzione diretta alla percentuale di incentivi. Quindi significativamente, quindi un cappotto in una zona E ha un tempo di ritorno che forse è più vicino ai 5 anni, no? Quindi che ai 10. Quali altre circostanze possono rendere sconsigliabile o difficile da mettere in pratica un cappotto in zone invece dove il clima suggerirebbe di farlo? Diciamo situazioni molto articolate con molte aperture, perché l'apertura è una un punto debole, una parte critica, un punto debole. I balconi sono una parte critica, no? La presenza di balconi, perché dobbiamo immaginare che il balcone è come una lettera raffreddatrice dell'edificio. Esatto. Risolvere quelle situazioni è abbastanza complicato. Lo si può fare in maniera parziale per una nuova costruzione, ma per una costruzione vecchia e diventa molto più complicato, se non impossibile. E poi naturalmente lo sappiamo, ci sono tutti i vincoli legati agli edifici storici, dove a volte non si può proprio far nulla di visibile in facciata. Va bene, grazie Luciano Terrinoni. Grazie a voi.